English Bit di Giulia Crivelli. Dressing: chopped romaine tossed with our Caesar dressing, crouton e fresh parmesan. Insalata lattuga con l'aggiunta del condimento Caesar, crostini e parmigiano fresco. Questa settimana ho scelto la voce di un menù di un ristorante di Austin in Texas specializzato in hamburger e insalate. La parola che ci interessa è dressing, che significa condimento, quasi sempre per insalate e in alcuni casi per pietanze a base di carne. L'origine è ovviamente il verbo regolare to dress, dressed, dressed, che significa indossare, ed è bizzarro, almeno lusinghiero, che il condimento negli Stati Uniti venga visto come l'abito dell'insalata. Nel caso del menù texano si tratta di un Caesar dressing, molto diffuso per l'omonima insalata e che è fatto con succo di limone, uova, aglio e salsa Worcestershire. Il nome è legato a Cesare Cardini, emigrato negli Stati Uniti dopo la Prima Guerra Mondiale, che nel 1924 inventò la Caesar Salad e relativo dressing nel suo ristorante. Ma vediamo altri usi del gerundo di to dress. Dressing gown è la vestaglia, dressing room il camerino. Quanto al verbo, oltre al semplice vestire o vestirsi, ci sono molti significati aggiuntivi. To dress down means to wear clothes that are more informal than those one usually wears. For example, at work, to dress up è il contrario, però significa anche travestirsi. Kids love dressing up. The kids were all dressed up as pirates. I bambini erano tutti travestiti da pirati. Dress code è un'espressione sempre più diffusa anche in Italia. The company has a strict dress code. All male employees are expected to wear a tie. L'azienda ha un dress code molto severo. A tutti i dipendenti maschi viene chiesto di indossare la cravatta. Dress rehearsal è il termine inglese per indicare la prova generale di uno spettacolo teatrale, cioè l'ultima prima di andare in scena e l'unica in cui si portano i costumi che si avranno nella serata di debutto. Tornando al verbo, da notare che in inglese è transitivo e intransitivo. Possiamo dire she dressed the children in their best clothes, ha fatto indossare ai bambini i loro vestiti migliori, oppure she always dresses in black, si veste sempre di nero, o ancora i dresses many of Hollywood's most famous stars, veste molte delle più famose star di Hollywood.